Buongiorno Radio Virus, suonerò per voi questo album di un artista giapponese, Kazuya Sato, che ho trovato quando ero in Giappone. Relax, natura, suonato strumento principale il flauto Shinobue e buon ascolto. Thank you. Il flauto shinobue è uno strumento della tradizione giapponese, anche se devo dire che si sente forte in questo album un'influenza musicale più moderna, quasi pop, che accompagna il flauto. Thank you. Simpatico notare, insomma, il contrasto che c'è fra il fluto shilabue, le diverse basi, ma soprattutto anche i diversi contesti che creano le diverse canzoni, no? Infatti è un flauto molto usato nel teatro giapponese, che passa da qualcosa di più naturale, qualcosa di malinconico, allegro. La prossima è Vento Blu. Thank you. Sempre per andare avanti, insomma, con questo contrasto di contesti creati, la prossima è anche Yako, Demone Notturno, una delle paure più grosse dei giapponesi. Kanate ha appena percorso l'antica strada in direzione verso il mare. Questo era Tramonto sulla strada di casa, l'ultima traccia di questo album. Kanate è tornato a casa. E insomma, questo era Katsuya Sato col suo flauto Shinobue. È più forte di me spegnere questa radio e quindi vado avanti con una cosa completamente fuori album. Però sempre un po' così coccolosa, tranquillona, forse. Una filastrocca del popolo nativo di Hokkaido, è una filastrocca che è raccontata dalle nanni ai bambini. He manta it is gala hard. He noodles secrets hard. It is our nea gun hard. Aye, why no hard. Any okahi hard. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah po sore ha ha no chiu canto ha ha chiu po sore ha ha e ma ka ke ta ha ha Shinis kanto haat, chiu pusuri haat, upiri kapon pet haat, sandit kona haat, umanatara haat, upet turasi haat, pitara kewa haat, Silokane tunita iha hang o silokane noya sara hat silokane summa hang ot uwan duene ha hut upet torake wa ha hut kongkane pilota iha hut Kong kane noya sarahat, kong kane sumahat, okaruene hat, oru osamahat, mike kane hat, upet turasi hat, arpang aine hat. Kane eti se ha ho poloti se ha ho tise arike ha ho weni snuka ha ho aine e kara ha ho tise arike ha ho Sukus no ka ha ho ainu e kara ha ho erotane sun ha ho lamat kara kamui ha ho dehot ne shinta ha ho shilot lua ati ha ho lehot ne shinta ha ho shuot lua ati Ati ha hot erun newa ha ho shikir ki kor ha ho onde hot ne shinta ha ho erun no suwe ha ho eutun newa ha ho O shikiru ki kor Ahu hende hot ne shinta Ahu iron no sue Ahu neno iki koro Ahu iki lakpampe Ahu uchishika hawe Ahu ainu moshid Ahu moshid top ka shi ha ho o chi wo lang ke ka a ho o ko su o kai pe ha ho o mo ko ro ne hi ke ha ho en de si ku s ha ho et chik pe ne ku s ha ho Aiwa ainu re hawene yakayetto. Non sarà certo dopo una ninna nanna che decido di fermarmi. Infatti ne approfitto per rimanere sempre in Giappone con una cosa molto più moderna. E infatti adesso ritiro un po' su tutto con Asakawa Maki, un artista insomma del millennio scorso, che mi piace molto. Yo ga aketara ichiban hayai kisha ni noru kara. Yo ga aketara ichiban hayai kisha ni noru no yo. Yo ga aketara. Yo ga aketara. Yo ga aketara. 一番早い汽車に乗るから切符を用意してちょうだい私のために一枚でいいからさ今夜でこの街とはさよならね割といい街だったけどね夜が明けたら一番早い汽車に乗っていつか噂に聞いたあの街へあの街へ行くのよいい人ができるかもしれないし あの街へ行くのよ夜が明けたら一番早い汽車に乗るわみんなは私に言うのそろそろ落ち着きなってねだけどもは長いじゃないそうあの街はきっといいよ夜が明けたら一番早い汽車に乗るから切符を用意してちょうだい本当本当よ 一枚でいいのよいつだって身軽な私じゃないそう乗るのよ夜が明けたら E vabbè, prima ho detto dell'altro millennio, siamo alla fine degli anni 60 e la traccia che ho appena messo è praticamente significa, cioè il titolo è Yoga Ketara, quando la giornata si interrompe, e quindi è abbastanza contemporaneo come titolo. E invece la prossima, sempre sua, di Asakawa Maki, si intitola Attrice con gli occhi scuri, Koraime Washita Yoyu. 暗い目をした女優、ミシェル・モルガンの目をもう一つ暗くした女優の目が、若い女を都会へと誘う。暗い目をした女優は思い切りかかとの高いハイヒールを履くのです。コツコツ大都会のアスファルトを響かせます。若い女の旅は果てとない。暗い目をした女優はどこへ行ってしまったのかしら。 Battutissima su come andare avanti, se rimanere sul femminile o sugli anni 70, vado di psichedelia anni 70. Stesso artista con una traccia di pochi anni dopo, Masterless Samurai. Thank you. E vado avanti con l'improvvisazione, faccio fatica a rimanere proprio sullo stesso genere, perché non ho così adesso subito tutte queste tracce e vado avanti, non posso, non so, vado avanti. C'è della Romeo Sono, nella prossima. Thank you. Le prossime due tracce sono di una band composta da quattro donne, il che uno mi può dire chi se ne frega e io rispondo vero, però purtroppo fa ancora, cioè, fa un effetto dire no. Nata, una band nata 30 anni fa più o meno di rock sperimentale in Giappone. Ho io e la band Honky Ponky è la canzone. Abbastanza buffa, cioè, però. Thank you. Chiudo, erano le Oyo, chiudo ufficialmente con un'ultima di Akoya Masaki, una delle mie preferite in assoluto, rilassiamo un po' il mood e magari poi forse ne aggiungo un'altra per insomma chiudere definitivamente. Grazie, ciao. Ido a ser 薄れてしまった恋しかったはずのあの山山私の肌に突き刺さるあの霧の白さが Lascio tra pochissimo voce a un programma di ecologia politica sulla salute mentale, che è sicuramente un tema importante in questo periodo. Ricordo a chi sta già ascoltando di refreshare la pagina della radio quando si passa tra un programma e l'altro. E niente, ultimi minuti, qualcosa di rilassante. Riciao. Thank you. Refresh the page.